Nuova sfida della cantante islandese Björk, che questa volta ha sorpreso i suoi fan cinesi gridando «Tibet, Tibet, raise your flag», alza la tua bandiera, dopo un'appassionata interpretazione della canzone Declare Independence. Così, domenica sera, al termine del concerto cinese, l'atmosfera tra il pubblico è cambiata e molti hanno abbandonato lo Shanghai International Gymnastic Center. I media di Stato hanno ignorato l'accaduto, ma alcuni siti internet si sono riempiti di commenti contro la cantante. Björk lo aveva già fatto in Giappone un mese fa. La stessa canzone, Declare Independence, era stata dedicata al Kosovo, che ha da poco dichiarato indipendenza dalla Serbia. Subito dopo, la Serbia aveva cancellato il concerto di Björk in programma per luglio. Ma la canzone si presta ad essere un inno all'indipendenza e Björk potrebbe riservarci altre sorprese. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore.